Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a tutti. Molti di voi staranno facendo il ponte, chi comunque ci continua ad ascoltare e non si è preso tutto questo periodo di vacanza. E allora noi oggi siamo regolarmente in onda e ci rivolgiamo in particolar modo alle persone in difficoltà, quelle delle quali abbiamo parlato per la verità tantissime volte in questi anni, le famiglie che non riescono a pagare il mutuo. Allora, perché ne ritorniamo a parlare oggi? Perché c'è una novità importante. Torna ad essere operativo il fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa. Questo strumento sarà rifinanziato con 20 milioni di euro, secondo quanto ha previsto il decreto Salva Italia, a partire dal 27 aprile, da domani, ma tecnicamente direi che sarà possibile da lunedì prossimo, si potrà fare richiesta alla propria banca per la sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo per un massimo di 18 mesi di interruzione. Possono ottenere questo sostegno coloro che hanno determinati requisiti, che hanno perso il lavoro, che subiscono la morte di un familiare o il riconoscimento di una grave invalidità. E naturalmente bisogna avere anche dei requisiti particolari relativamente al momento in cui è stato stipulato il contratto di mutuo. L'evento che dà l'opportunità di fare richiesta del fondo di solidarietà deve essere verificato nei 3 anni precedenti la richiesta di accesso appunto a questo beneficio. Ci sono anche determinati requisiti legati al reddito che danno la facoltà appunto di fare questa domanda. E comunque noi oggi rifacciamo un punto della situazione, perché intanto è terminata la moratoria delle banche, l'altro strumento del quale abbiamo parlato tante volte, compreso nel cosiddetto piano famiglie. Questa moratoria era stata prevista appunto dal sistema delle banche italiane, dall'ABI, con la sollecitazione molto forte delle associazioni dei consumatori. La moratoria è terminata a marzo scorso, quella era stata la quarta proroga, era stata peraltro molto breve, non di 6 mesi come le proroghe precedenti, ma in ogni caso questo strumento è andato avanti per oltre 3 anni e adesso le banche hanno detto non possiamo più continuare, e quindi la moratoria ha passato il testimone appunto al fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa, che peraltro è alla sua versione bis, perché esisteva già la prima dotazione di 20 milioni di euro era andata letteralmente a ruba, come probabilmente andrà anche questo stanziamento, ma in ogni caso quantomeno c'è ancora qualcosa per le famiglie in difficoltà. 800 24 00 24, il numero verde se volete intervenire in diretta, chiederci dei chiarimenti su questa notizia. Noi oggi stamattina ne parliamo intanto con chi ha voluto fortemente questo fondo di solidarietà nella sua prima versione, chiaramente anche in questa replica, Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale di Federcasalinghe, che saluto. Presidente, buongiorno e ben ritrovata a Salva Danaio, ormai ospite fissa quando parliamo di questa notizia. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E grazie appunto per essere ritornata con noi, così come ringrazio l'avvocato Maria Stella Anastasi, segretario della Lega Consumatori, consulente legale per il comparto bancario e finanziario di questa stessa associazione. E anche l'avvocato Anastasi torna quasi solo ed esclusivamente per questo argomento, ce ne dispiace quasi anche, ma prometto che prima o poi torneremo a parlare anche di altri temi con lei, avvocato. Ed è praticamente anche l'avvocato Anastasi che ha rappresentato la Lega Consumatori nel tavolo con le banche anche per la questione appunto della moratoria. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, oltre al numero verde, sapete bene che potete utilizzare anche altri canali per interagire con noi. I numeri appunto questi canali sono sempre gli stessi. Scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook, il profilo della nostra trasmissione è su salvadanaio-radio24. Siamo anche su Twitter, @salvadanaio24. Prima di addentrarci nel tema mutui e la ripartenza del fondo di solidarietà destinato a chi non riesce a pagare le rate, adesso vediamo però cosa succede oggi in borsa. Notizie buone e notizie meno buone. Allora, intanto la borsa oggi è negativa. Parigi capofila dei ribassi, perde più di un punto percentuale. Francoforte meno 0,59, Londra meno 0,49, Milano meno 0,81%. La borsa è negativa, si ferma dopo giornate abbastanza buone, ne parliamo da un po'. Un mercato che ha guardato a tante iniziative internazionali. Intanto negli ultimi giorni i listini si sono mossi positivamente sulla scia delle attese per una riduzione dei tassi di interesse che la Banca Centrale Europea presumibilmente deciderà appunto la prossima settimana, una riduzione dello 0,25% con i tassi che in Europa potrebbero arrivare allo 0,50%. Poi la grandissima liquidità in circolazione per le misure straordinarie delle banche centrali appunto internazionali, da quella del Giappone alla Federal Reserve, tutto questo ha messo in moto non poco i mercati azionari. In tutto questo si è guardato anche con grande interesse alla situazione politica italiana, allo sblocco dallo stallo durato fin troppo. Speriamo che si possa formare entro tempi brevi un nuovo governo. Per Enrico Letta un impegno tutt'altro che facile, ma in ogni caso oggi la borsa perde lo 0,8%, come dicevamo. I titoli migliori: Saipem più 2, Telecom più 0,9, Ansaldo più 0,7%, Atlantia più 0,7, sono in discesa tutti i titoli del settore bancario. Il Banco Popolare perde quasi 4 punti, Fiat meno 2,67, Ubibanca meno 2,55. La buona notizia di oggi è che il Tesoro, come abbiamo detto anche nel giornale radio, ha venduto 8 miliardi di euro di bot semestrali di fronte ad una domanda da parte del mercato di oltre 11 miliardi e è stato registrato un fortissimo calo del tasso di interesse allo 0,50% per questa emissione, il minimo storico dall'introduzione dell'euro. Un mese fa questo titolo aveva chiesto sul mercato aveva dovuto concedere sul mercato lo 0,83% di rendimento. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi molto caro a tutte le famiglie che ci ascoltano: i mutui. Riparte per chi è in difficoltà il fondo di solidarietà. Sono oltre 90.000 le famiglie italiane che negli ultimi anni hanno ottenuto la sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo. Perdita del lavoro, cassa integrazione, spese mediche impreviste, decesso di un familiare. Tante le condizioni che possono aver portato a fare questa richiesta. Ha potuto trovare una risposta grazie a due iniziative di sostegno. La prima, il cosiddetto Piano Famiglia, promosso dal Sistema Bancario Italiano, permetteva di sospendere per un anno il pagamento delle rate, in presenza di determinati requisiti. Avviato 3 anni fa, d'intesa con le associazioni dei consumatori e prorogato per 4 volte, ha visto quello che sembra essere uno stop definitivo con lo scorso mese di marzo. A prenderne di fatto il posto c'è il Fondo di Solidarietà, iniziativa simile che ha già visto una prima attivazione nel 2010, rimanendo poi bloccata in attesa di una ripartenza. La differenza è che i soldi arrivano dallo Stato. Precisamente si tratta di 20 milioni di euro, stanziati dal decreto Salva Italia. Da lunedì ci si potrà recare in banca e chiedere, se si hanno i requisiti, di sospendere il mutuo per 18 mesi. Tra i possibili beneficiari c'è chi ha subito la perdita del lavoro, il decesso di un familiare o una grave invalidità. La domanda può essere presentata se il mutuo non è superiore a 250.000 euro e se l'indicatore ISEE del reddito annuo non supera i 30.000 euro. Infine, un elemento importante è che non si accumulano commissioni da pagare alla banca per il periodo di sospensione. Il fondo restituisce infatti agli istituti i costi relativi agli interessi maturati dal debito, in misura pari al tasso di interesse applicato al mutuo. Il fondo restituisce infatti agli istituti i costi relativi agli interessi maturati dal debito, in misura pari al tasso di interesse applicato al mutuo, escludendo quindi solo il cosiddetto spread, ovvero il ricarico applicato dalla banca. E questa l'ultima indicazione che abbiamo dato nella nostra scheda è una delle differenze di fondo rispetto all'altro strumento, rispetto alla possibilità di sospendere il mutuo che si aveva attraverso il piano famiglie. Nella sostanza, sospendendo per un anno il mutuo, avvocato Anastasi, magari lo spieghiamo già, in quel caso quell'anno di sospensione era solo procrastinato per la famiglia che faceva questa richiesta. In questo caso invece la quota degli interessi che non si versano in questi 18 mesi se ne incarica lo Stato. C'è una bella notizia, questa è una bella novità. Assolutamente sì. alle associazioni, quando è emersa la possibilità di rifinanziare il fondo, hanno chiesto l'estate scorsa qualche aggiustamento rispetto a quello che era stato il piano famiglie concordato con ABI, perché innanzitutto è importante il fatto che sia maggiore l'importo del mutuo, cioè per il piano famiglie ABI erano mutui fino a 150.000 euro, in questo caso sono fino a 250.000, quindi anche questo limite, che innegabilmente ritenevamo fosse basso, perché soprattutto nelle grandi città le case avevano prezzi molto più elevati e quindi i mutui erano stati stipulati per importi più elevati. Lo stesso per appunto il discorso degli interessi, che in questo caso vengono appunto supportati dal fondo. I 250.000 euro di cui mi parlava sono il limite del mutuo o del valore della casa? No, il limite del mutuo che è stato chiesto ed erogato dalla banca, quindi l'importo iniziale. Presidente Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale di Feder Casalinghe, tra l'altro c'è anche un'altra differenza rispetto alla prima versione del fondo di solidarietà, perché in quel caso potevano fare richiesta di accesso a questo strumento anche le famiglie che volevano ristrutturare casa o qualora si fosse verificata nella famiglia una circostanza di emergenza per problemi di salute, quindi per fronteggiare delle spese mediche si poteva anche fare richiesta di questo sostegno finanziario. In questa seconda versione invece c'è solo ed esclusivamente, mi pare di capire, la possibilità di chiedere la sospensiva del mutuo, non ci sono circostanze ulteriori, no? Presidente? Quando nacque il fondo di solidarietà eravamo nel lontano 2007, si pensava anche di dare un incoraggiamento alle famiglie che volessero rimettere in sicurezza l'abitazione, che è un problema che l'Italia ha, la sicurezza delle abitazioni. Purtroppo ci sono stati dei tentativi di abuso da parte dei cittadini, quindi per non caricare di spese di verifica del diritto ad avere la sospensione si è dovuto tagliare questi aspetti che lei diceva, la ristrutturazione e la infermità presente nel nucleo familiare grave. Tuttavia, la soddisfazione perché il fondo riparta è grande. Mi lascio dire con qualche preoccupazione. Perché? Perché dei 90.000, delle 90.000 famiglie che hanno aderito al piano famiglia ABI, moltissime per fortuna hanno ripreso i pagamenti dopo 12 mesi, qualcuna in difficoltà e ha diritto ad ulteriori 6 mesi integrativi col fondo di solidarietà. Quindi si fa un calcolo che vicino alla lunga lista già presente ci si aggiungano anche queste persone. Allora, le richiederemo aiuto perché i 20 milioni di euro probabilmente fino a tutto 2013 saranno sufficienti, ma per l'anno 21 va rifatto uno stanziamento anche un po' superiore. Benissimo, voglio allora dire che questo è un diritto che dà a chi compra casa una sicurezza, perché 20 negativi possono succedere a tutte infatti, le famiglie. E noi la aiuteremo senz'altro in questa battaglia per chiedere appunto una maggiorazione della dotazione complessiva del fondo di solidarietà. Nel frattempo appunto lei diceva, Presidente, che probabilmente a quelle che non hanno mai fatto richiesta di una sospensione straordinaria si aggiungeranno anche coloro che invece dopo 12 mesi di sospensione già attivata con lo strumento della moratoria non riescono adesso a ritornare a pagare, quindi potrebbero avere a disposizione altri 6 mesi di tempo se si agganciano al fondo di solidarietà. Avete quantificato in circa, ho trovato questa stima, non so se sia la vostra, in 16.000 famiglie che potranno essere aiutate da questo fondo complessivamente, una stima attendibile? Esatto, sì, è una stima valutata anche sul vantaggio che, come diceva lei, lo spread in questo momento è basso. Sono fra i 15 e i 20.000, di queste almeno 10.000 sono le famiglie che hanno già avuto 12 mesi di sospensione ma hanno bisogno di un maggior respiro, quindi di ulteriore 6. Allora, diciamo che i criteri generali li abbiamo capiti, adesso dobbiamo andare chiaramente al particolare delle situazioni che ci raccontano i nostri ascoltatori, perché chiaramente dal criterio poi generale è difficile capire se ci sono delle clausole, delle postille tali per cui, anche se magari i nostri ascoltatori pensano di poter aver diritto di fare questa domanda, in realtà poi si scopre, perché magari manca un parametro, che non possono farla. Allora cominciamo a sentirli. Daniele dalla provincia di Perugia, buongiorno Daniele e benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno e salve a tutti. Allora, la mia domanda è questa. Dunque, nel 2006 mio fratello e mio padre hanno contratto un mutuo per l'acquisto prima casa e risulta come primo contrattore di mutuo mio fratello e cointestatario mio padre. Ora è successo che mio padre purtroppo si è ammalato con una malattia invalidante che gli ha dato invalidità al 100%. E volevamo sapere se, siccome lui ha dovuto smettere l'attività che faceva in proprio per questa circostanza, se avevamo diritto anche noi comunque a richiedere la sospensione del mutuo. Mi pare che Daniele già un'indicazione fondamentale per darle una risposta ce l'abbia data. Un lavoratore in proprio, ha detto avvocato Anastasi, suo papà, che era comunque cointestatario del mutuo, non primo intestatario. Però il papà potrebbe usufruire per via dell'invalidità. Quindi se la malattia invalidante presenta un'invalidità superiore all'80% e il papà è un cointestatario, perché magari il dubbio che mi può venire è che magari il papà fosse solo un garante del fratello, se invece è un cointestatario ovviamente nel suo caso fa leva questo aspetto, certo. Quindi ora probabilmente il fratello, mi sembra di capire, avevano l'attività in proprio, però in questo caso l'evento è quello dell'invalidità, quindi immagino non c'entra... superiore a quella dell'80% del papà, perché è sufficiente che uno dei cointestatari abbia il requisito. Ma non devono essere lavoratori dipendenti in questo caso, cioè la discriminante sì, molto. Nel caso del fratello ci sarebbe stato il limite perché non era un lavoratore dipendente, ma in questo caso quello che ha il requisito è il papà, perché avrebbe l'invalidità, immagino, mi sembra di capire, Daniele, superiore all'80%. Vuole fare delle precisazioni? Sì. Però insomma abbiamo detto. È così. Sì, è invalido al 100% ecco. Mio padre. Quindi è lui che ha il requisito. Dipendente, quindi allora, certo. Diciamo, secondo questi parametri la domanda potrebbe essere fatta in tutta tranquillità, bisogna vedere appunto a quanto ammontava il mutuo iniziale e anche il reddito annuo complessivo, che secondo il parametro dell'ISEE non deve essere superiore appunto ai 30.000 euro. Ci fermiamo, abbiamo il nostro primo stop, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, poi andremo a Pietro da Bari e ai tantissimi ascoltatori che ci stanno anche scrivendo. C'è chi ci scrive se per esempio il leaseback può essere soggetto a moratoria, che è uno strumento nel leasing, probabilmente intanto la moratoria non c'è più, c'è però l'avviso comune per le aziende, questo è uno strumento che potrebbe essere sospeso qualora appunto, se in questo caso si tratterà sicuramente di una piccola società, questo è un leasing, quindi ci è una cosa. Ci sono altri tipi di, esatto. Diciamo di moratorie per quanto riguardano le piccole immobili delle piccole e delle medie imprese, quindi non è il tema di cui parliamo questa questo mattina, no, riguarda però esclusivamente l'abitazione della famiglia, quindi la prima casa. A tra poco. Famiglie in difficoltà che non riescono a pagare il mutuo, e allora, come sapete, è un tema ormai ricorrente da tantissimi anni, sono stati molti gli strumenti messi a disposizione delle famiglie non nella condizione appunto di rimborsare la rata mensile. È terminata la cosiddetta moratoria delle banche, adesso riparte il fondo di solidarietà, che è uno strumento gestito dal Ministero dell'Economia, e però insomma per potervi accedere bisogna avere determinati requisiti, li abbiamo spiegati tutti nella prima parte del programma. Rispondo molto velocemente a un ascoltatore, Gianni, che ci scrive: la banca lo scorso anno mi ha concesso la sospensione che termina a maggio, posso accedere al fondo per quanto si può sospendere ancora? Sì, Gianni, se ha i requisiti che sono un po' diversi rispetto alla moratoria che le ha permesso già di sospendere il fondo, di sospendere il mutuo, se ha i requisiti può accedere e può rinviare la ripresa dei pagamenti di altri 6 mesi, quindi 12 più 6, perché complessivamente il fondo di solidarietà permette la sospensione per 18 mesi. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Siccome tra qualche minuto ci deve lasciare, poi terminerò la puntata con l'avvocato Maria Stella Anastasi, la presidente di Federcasalinghe, Federica Rossi Gasparrini, che possiamo proprio considerare mi permetta questo termine, la mamma, comunque l'artefice di questa operazione che ha portato alla creazione di questo fondo, che è partito già nel 2007, almeno nelle intenzioni, poi la prima dotazione di 20 milioni è partita un po' più tardi. Le volevo chiedere, Presidente, sempre per non illudere ovviamente gli ascoltatori, ma avere sempre un atteggiamento molto realistico, da lunedì si potrà andare in banca per fare richiesta appunto di adesione a questo fondo? Poi non ci aspettiamo che la banca ci dia una risposta nel giro di mezza giornata, perché è impossibile, perché il procedimento per richiedere appunto il fondo di solidarietà è un pochino complesso, c'è una società che è intermedia che si chiama Consap, ci vuole certo spiegare? Comunque credo che domenica su Sole 24 Ore ci sia una guida pubblicata completa che può essere di aiuto, ma nel contempo anche sul sito del Ministero del Tesoro ci sono le informazioni. Credo che sia importante fare le domande velocemente, proprio perché ci sono parecchie richieste da soddisfare. Promettiamo tutti insieme che ci impegneremo perché il fondo sia rifinanziato e diventi un prodotto stabile nel nostro ordinamento, che vuol dire dare un diritto di sicurezza ai cittadini che possono incontrare un momento di drammatica difficoltà. Esatto, anche perché siccome noi chiaramente speriamo che la crisi economica venga superata, anche se probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo, ma magari non è solamente la condizione economica che porta una famiglia a non poter pagare il mutuo, l'esperienza, il caso che abbiamo sentito dall'ascoltatore di Perugia prima ci ha fatto capire come in realtà possano verificarsi, avvocato Anastasia, anche altre situazioni molto gravi che rendono impossibile mantenere questo impegno finanziario. Certamente, così come un altro elemento che ci ha fatto insistere con il Ministero è stato quello di inserire tra le caratteristiche anche chi aveva un lavoro dipendente anche a tempo determinato, mentre altre moratorie questa ipotesi non magari non la, precedentemente in realtà il fondo non lo consentiva. Adesso è consentito anche per i lavoratori, purché subordinati a tempo determinato e purché la loro condizione di disoccupazione sia presente nel momento in cui viene inoltrata la domanda. Domanda che volevo ricordare va presentata alla banca, perché poi è la banca che attraverso procedure di tipo telematico provvede a trasmettere la documentazione alla Consap. Alla Consap, perché è la concessionaria dei servizi pubblici che appunto fa questa attività di gestione delle domande, di esame e di gestione delle domande. È importante appunto che il modulo, che si trova appunto facilmente già presente sul sito sia del Ministero del Tesoro. Esatto, intanto chi è interessato magari in questo fine settimana può andare a controllare sul tutto. Sito del Ministero del Tesoro, sul sito della Consap. È un modulo che abbiamo chiesto venisse il più possibile semplificato e effettivamente devo dire è relativamente semplice, sono tre paginette ma molto lineari, i documenti da presentare non sono tantissimi, quindi anche l'aspetto burocratico abbiamo cercato. Ecco, per esempio, se uno fa richiesta perché è in cassa integrazione, che tipo di documentazione deve presentare? In genere sono i documenti che l'impresa, l'azienda presso la quale si è dipendenti ci fornisce in queste situazioni, quindi l'elenco proprio dei documenti è presente proprio all'interno della domanda, quindi diciamo che non sono, ripeto, documenti di difficile reperibilità. Infatti, perché si tratta di un'autocertificazione. Di prima il papà in condizione invalidante. Chiaramente in quel caso il verbale rilasciato dall'ASL che certifica l'attestazione di invalidità della persona, certo. Così come per esempio anche il dicevo appunto la modulistica che è presente prevede che a sottoscrivere il modulo siano tutti i cointestatari del mutuo. Quindi la caratteristica, il requisito potrebbe averlo uno solo ed è sufficiente, ma ovviamente la modulistica la domanda va sottoscritta da tutti ed è un'autocertificazione. Quindi benissimo, quindi si va in banca, si fa richiesta alla banca, alla banca si dà tutta questa documentazione che a sua volta la inoltra appunto alla Consap, www.consap.it. Qualche altra domanda? Sentiamo Pietro da Bari. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Senta, premesso che sono un lavoratore autonomo ed ho già usufruito della prima sospensione. E come ha fatto? Ma probabilmente d'accordo con la sua banca, Pietro, perché così, per i lavoratori... Sì, mi sono recato in banca, mi hanno chiesto il reddito, avevo dei requisiti e mi hanno accettato questa sospensione. Poi finita No, la ringrazio perché ce l'ha raccontato, perché siccome tante banche dicono no, non possiamo sospendere perché essendo lavoratore autonomo non si può fare, invece con un pochino di buona volontà si può mi fare. Mi hanno chiesto dei requisiti, forse probabilmente avevo dei requisiti perché effettivamente il reddito si era abbassato, stiamo passando dei, come si sa, la crisi la stiamo vivendo difficili. Tutti e poi è finito la sospensione e ho ripreso, ma non ho pagato una rata, due rate, non mi ricordo bene, e ultimamente vado a stento anche perché mi stanno richiamando. Non so, volevo sapere se posso attingere a questo, se posso avere, se ho dei requisiti, non so, posso accedere a questa alta al fondo di solidarietà. No, per quello che la riguarda lei non credo. No, Pietro, no, perché chiaramente poi per i motivi che abbiamo detto fino ad ora anche con la presidente Gasparrini, essendo purtroppo la dotazione del fondo comunque sarà limitata e il numero di domande saranno sicuramente superiori, sono purtroppo rimasti fuori tutti i lavoratori autonomi. Esatto. Questo è, sappiamo, un limite, e in questo senso le associazioni continuano a lavorare ovviamente con l'Associazione Bancaria Italiana perché come dire, con un discorso di moral suasion, come si suol dire, le banche, come è stato il caso del nostro ascoltatore, di fronte a una situazione di lavoratore autonomo comunque in difficoltà, in maniera, come dire, autonoma, nel rapporto privato banca eccetera, arrivino comunque a una soluzione magari di ristrutturazione del mutuo, del debito, e quindi aiutare comunque la famiglia del lavoratore autonomo a non perdere la casa. Però purtroppo, ecco, a norma del fondo, purtroppo no, non è possibile. Federica Rossi Gasparrini, autonomo. L'ultima domanda prima di salutarla, e allora, ho capito che chiaramente la vostra prossima battaglia è quella di rendere questo fondo non dotazione temporanea ma un fondo strutturale nel tempo. Un'altra battaglia importante potrebbe essere quella di creare invece delle dotazioni apposite per i lavoratori autonomi, che ne pensa? Beh, sarebbe giusto in un paese in cui dobbiamo tanto ai lavoratori autonomi e anche ai piccoli imprenditori. Occorre, adesso c'è il nocciolo di base attorno a questo, anche con l'ABI, le associazioni di consumatori e voi, cercheremo di costruire un messaggio più completo. Però mi lasci dire che ho sorriso quando lei ha detto che sono la mamma del fondo. Sa perché ho sorriso? Perché? Non vorrei averlo... Guardandomi allo specchio ogni tanto mi domando, ma ho fatto un figlio? Perché questo fondo di solidarietà da 6 anni... È stato un parto duro, questo possiamo dirlo perché ce l'ha raccontato tante volte, però... Quindi lei ha fatto una battuta che mi ha fatto sorridere. Affettuosa, naturalmente, spero che lei lo abbia compreso. Assolutamente. Siamo tutte donne, tra l'altro, questa mattina, quindi io, come dico sempre, non sono mamma, sono solo una zia fantastica, però insomma la maternità ce l'abbiamo un po' tutti dentro. Grazie Presidente Gasparrini, la risentiremo sicuramente presto, magari fra qualche mese faremo il punto della situazione. Ci tenga al corrente, quando saremo anche questo fondo sarà agli sgoccioli, perché chissà in quanti mesi questi 20 milioni verranno bruciati. Buon weekend a tutti. Grazie, a presto. Noi sentiamo un'altra domanda prima di andare ai suggerimenti per Chi in Viaggio, perché abbiamo tempo, abbiamo in linea due persone con due situazioni di difficoltà molto molto seria. Volevo sentire prima di tutto Franco da Pesaro. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo sapere se posso aderire a questa domanda, se la posso fare, perché nel mio caso io ho perso il lavoro nel 2009, ho 46 anni con 46% di invalidità civile e 2 figli minori. E la banca a me non mi ha sospeso il mutuo, perché loro hanno detto che per il tipo di mutuo non me lo potevano sospendere. Per che tipo di mutuo ha fatto, Franco? Per quale motivo? A tasso fisso è quello mutuo. Io ho chiesto, ma per quale motivo? C'ho solo 2 rate indietro perché non posso fermare il mutuo, sono disoccupato, ho una invalidità civile, e loro mi hanno detto che non si poteva. Dopo che banca è, Franco, allora, tanto per cominciare? Banca delle Marche. Hanno chiuso il rapporto con me e adesso è in recupero crediti, quindi sto arrivando che mi arrivi la lettera estratto, ecco. Hanno chiuso il rapporto con lei in che senso? Che io, se vado lì, non c'ho più un conto, non c'ho più niente. Mi hanno detto ti devi rivolgere al recupero credito a Pesaro. Quante rate non ha pagato del mutuo, Franco? In quel momento lì, quando ho fatto la richiesta, quando ho fatto la richiesta c'erano solo due rate indietro, se non ricordo male. Ma adesso lo sta pagando il mutuo, riesce? No, adesso no, io non riesco a pagare il mutuo perché ancora adesso io non c'ho un lavoro, io sono quasi 5 anni che non lavoro più. Allora è da un po' che adesso. Sì, ma allora è da un po' adesso che non paga. Adesso, certo, se non gliel'hanno data in quel momento che aveva le condizioni, adesso da un po' che non paga. Credo che già abbiamo anche sforato i tempi per poter avere, come dire, l'azione retroattiva. Avvocato Anastasia, aspetti di Franco. Ma in realtà il problema nasce quando, appunto, nel 2009, mi sembra di capire, il nostro ascoltatore chiede la sospensione. In realtà, in quel momento lui i requisiti li aveva, perché con due rate non pagate, in quel momento lui rientrava la disoccupazione e quant'altro. Ora, perlomeno dalle cose che abbiamo capito fino a durante la telefonata, quindi il problema è nato all'epoca. Evidentemente lui, se ha continuato ad essere disoccupato, avrà continuato a non pagare il mutuo, esatto, la banca, e adesso si è preso, ovviamente è l'ha fatto procedura. Decadere dal beneficio, sì, certo, quindi chiaramente lui adesso è già in una situazione in cui è ovvio che adesso lui non rientra nei requisiti, perché il suo mutuo comunque è, diciamo, già nella fase del recupero credito per la banca, perché ormai non è più in arretrato di 90 giorni, di pignoramento, probabilmente, si è avviata la procedura di esecuzione di recupero del credito in maniera coattiva. Il punto è forse capire che cosa è successo quella volta. Guardi, perché Franco, quella volta è stata negata quella sospensione che ha poi portato a tutta questa esplosione nel caso dell'ascoltatore. Franco, se ha voglia, perché mi rendo conto anche che poi quando si hanno queste situazioni difficoltà non si ha neanche voglia tanto di mettersi lì davanti al computer a scrivere, se ce la vuole, come dire, ribadire la sua situazione scrivendocela a salvadanaio@radio24, ma proprio per curiosità, per capire nel 2009 perché c'è stato il no, il mutuo non aveva i requisiti, vorrei capire che mutuo era, per appunto farsi dare questa risposta. Ci fermiamo per i suggerimenti per chi è in viaggio. Velocemente una mail di Giampiero a salvadanaio@radio24 che ci spiega che ha fatto la domanda per il secondo fondo di solidarietà. No, non è possibile, semmai per il primo. 18 dicembre 2012, nessuna risposta, ma comincia la sua mail dicendoci: la mia situazione è che sono un autonomo, socio di una SRL, prestatore d'opera nella ditta. Avvocato Anastasi, dobbiamo ribadire ancora, girare il coltello in una piaga che ormai conosciamo bene: per i lavoratori autonomi questi strumenti non sono disponibili. Ecco, sì, purtroppo questo è un limite sul quale, come diceva la dottoressa Gasparini poco fa, siamo tutti impegnati a lavorare, anche le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi credo abbiano messo comunque in campo qualche cosa, qualche, come dire, scialuppa di salvataggio per i loro iscritti, però certo rispetto ai lavoratori dipendenti sono molto penalizzati. E Giorgio si lamenta giustamente di un'altra situazione: ha già in corso il pignoramento della casa, la procedura di esecuzione. Giorgio, buongiorno, quindi non può far richiesta di sospensione. Buongiorno, ci vuole raccontare? Sì. Deborah. Sì. Posso? Certo. Sì, buongiorno. Mi dispiace che la dottoressa Gasparini ci abbia lasciato. Volevo dire questo. È meritorio ciò che tutte le associazioni di consumatori e altri hanno fatto da 6 anni stanno facendo da 6 anni a questa parte, però non sono stati incisivi secondo me, soprattutto perché già da prima, ben oltre 6 anni fa, c'era questo sentore di decadimento, soprattutto per chi è in affitto o ha acquistato un appartamento. Veniamo Guardi, Giorgio, questo purtroppo non mi trovo di non condividere con lei, perché conosco benissimo Maria Stella Anastasi da anni, Fabio Picciolini della Diconsum, che ha lottato come un pazzo con l'Associazione delle Banche Italiane, con Maria Stella Anastasi, hanno anche sbattuto il pugno sul tavolo molto spesso. Poi io lo so che queste cose è più facile guardare in streaming i grillini adesso e altre cose che vanno di moda, e queste cose invece non si sanno, no? Ma direi in realtà però, no, per carità, poi Giorgio avrà una situazione, però questo mi spiace perché queste cose non si conoscono. Tutti hanno assolutamente ragione, però è vero che questa problematica le associazioni l'hanno sollevata in tempi. Il sovrindebitamento di Adiconsum è una battaglia che fanno. Ma così come i primi provvedimenti in questo senso sono del 2007, quindi come dire, il sentore non era un sentore per le associazioni, ma era una convinzione. Un'evidenza, Giorgio, e qualcuno ci guardava come se fossimo degli avvoltoi, come dire, degli uccelli del malaugurio. Quindi ci mancherebbe, non mi veniva. sappiamo che al peggio non c'è fine e quindi, come dicevo poco fa, il lavoro non è che si sta fermando, lo diceva la dottoressa Gasparini, continueremo, è evidente. Così come io ho sempre, io sono un avvocato e dico sempre alle persone che vengono in associazione di non fare un errore, e cioè di scomparire con la banca. Quando si è in difficoltà, di chiedere comunque sempre, o anche attraverso le nostre associazioni, esatto, mettendo per non iscritto aspettare che chiamino loro richieste intanto, di ristrutturazione del proprio debito. Infatti. Perché la cosa peggiore è proprio quella di scomparire. Cioè, se io chiedo, mi pongo in una condizione comunque di provare a trattare, esatto, con la banca una ristrutturazione del mio debito, anche il caso, per esempio, del lavoratore autonomo che non rientra in questo genere. Però io dico sempre, proviamo a chiedere una ristrutturazione, facciamo noi delle proposte, noi come debitori, ovviamente, perché è il modo peggiore quello di scomparire, perché esatto, è evidente che a quel punto rimane soltanto l'azione legale alla banca. Guardi, io ho un caso di un'amica, una persona che sto seguendo per una questione di questo tipo, e che si lamentava, come qualche giorno fa, del fatto che il direttore di banca a cui lei voleva, sta spiegando la sua condizione di difficoltà, non risponde al telefono, non si fa trovare. Io, tu guarda, scrivi una bella mail, metti per iscritto anche questo, certo, suo comportamento, perché poi è bene che la banca sappia come questo direttore si comporta, ma c'è un nero su bianco del fatto che tu sei in difficoltà, esatto, che hai alzato la voce, che hai chiesto una rinegoziazione della tua condizione, esatto, poi che si possa fare o si possa fare, questo è un altro discorso, però intanto c'è una presa di coscienza forte. Detto questo, abbiamo praticamente seppellito quel povero Giorgio. Giorgio, eccoci qua, sì, ci siamo. No, abbiate pazienza, abbiate pazienza, non potete chiudere il telefono in questo modo. Allora, intanto nessuno ha chiuso il telefono, però anche io, sì, lasciatemi parlare, perché diversamente l'avvocato è stata 3 minuti a dire ciò che devo dire io. L'avvocato ha detto una cosa sensata, però non è nei miei confronti. Io non sono latitante, io non sono stato latitante con l'istituto di credito. Se l'avvocato mi interrompe, io ho premesso prima di tutto che le associazioni hanno fatto qualcosa di meritorio, quindi l'uscita dell'avvocato non ci azzecca per niente. Vabbè, questa è una sua presa di posizione, Giorgio. Neanche per il fatto, perché io non sono stato latitante. Io voglio dire questo, tagliamo corto. E sono andato in pensione. Ho avuto difficoltà perché mio figlio è stato licenziato, ingegnere elettronico, 40 anni di età, è stato licenziato, non ha lavoro, non sono rientrato in tutti quei parametri. Ho cercato duramente di tirare a lungo fino a 7 mesi fa, tirare, ma con sacrifici che probabilmente né l'avvocato né la dottoressa Gasparini conosce, ma sacrifici che voi non immaginate. Tenete presente, io le posso assicurare che le immaginiamo, Giorgio. Sono un ex bancario, io i fidi li ho erogati, mi sono trovato in queste situazioni e dopo 37 anni, 38 anni di lavoro di marchette versate, mi trovo invece dall'altra parte della staccionata e devo subire ciò che io cercavo di porre rimedio. Purtroppo, io non sono stato mai latitante con l'istituto di credito, ho cercato di versare sempre e tenermi sempre in contatto con l'istituto di credito, fino a quando poi a un certo punto mi hanno detto che non si poteva continuare ad andare avanti in questo modo ed è partita la procedura esecutiva. Volevo chiedere all'avvocato e alla dottoressa Gasparini, avrei voluto chiedere, ma questi fondi fanno parte vengono prelevati dai contributi e dalle tasse che tutti gli italiani pagano. Vabbè, Giorgio, allora, guardi, mi scusi, ha fatto tutto questo preambolo che per una domanda che non c'entra niente, perché io vorrei, se mi consente, dopo tutta questa polemica, per la quale mi dispiace se lei si trova in questa condizione, non c'entra niente sapere dove questi soldi sono stati presi. L'importante è che ci siano, che vadano alle persone che hanno bisogno. Mi perdoni, andiamo a Silvano da Pesaro. Santo cielo. Silvano, buongiorno. Ecco, sì, buongiorno. Rapidamente, perché alla fine, vedi, per perdere tutto quel tempo, Allora, io ho chiuso un mutuo a una banca 6 anni fa e l'ho portato a un'altra banca. Io l'ho proprio chiuso, non ho fatto il passaggio, l'ho proprio chiuso a una banca e l'ho portato certo, a un'altra banca. Fatto bene. Poi dopo di 2 anni ne ho preso un altro per la ristrutturazione della casa. Comunque questo è sempre, fa parte sempre della casa. Sì. Adesso ho chiesto la sospensione almeno di uno dei due. E loro mi hanno detto, allora, il primo non si può sospendere perché avendo chiuso un mutuo da una banca e portato l'altro non risulta più complicato. Il secondo non lo possono sospendere perché l'hanno passato a un'altra banca e quindi non lo possono sospendere. Allora io volevo sapere. Diciamo che in tutto questo non glielo vogliono sospendere, ecco, sì. Allora, un minuto Silvano, vado subito all'avvocata Anastasi. Eh sì, un minuto niente, fra un minuto sì, mi ha già messo la sigla Fabio, cosa può fare questo nostro ascoltatore? Fa totalmente arrabbiare Giorgio che... Avvocato, chiudiamo. Sì, l'ultimo ascoltatore, direi, si rivolge a una delle associazioni dei consumatori per capire nel dettaglio quale può essere il problema che è nato con i due mutui e vedere magari di capire e quindi poi naturalmente di insistere con la banca. Un mutuo l'ha chiuso ed è passato ad un'altra, sì, l'ha fatto una surroga, ecco, certo, infatti, e l'altro, vediamo, bisognerebbe veramente vedere un po' nel dettaglio la documentazione. Silvano ci non scriva. Escludo, esatto, può scrivere a voi voi e poi potete tranquillamente dirottarlo alle nostre associazioni. Avvocata Anastasi, grazie. Ci sentiamo lunedì con Salvadanaio. Buon weekend a tutti.